Perfetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. La legge elettorale è stata approvata anche dal Senato. Il giorno di Verdini. Siamo e restiamo in maggioranza, dice. Banca d'Italia, forse oggi il nome del governatore, si punta sul rinnovo del mandato a Visco. La Val di Susa continua a bruciare. Evacuate delle case, la regione vuole chiedere lo stato di calamità. Il Parlamento europeo assegna il premio Sakharov per i diritti umani all'opposizione venezuelana. La Corte di Strasburgo condanna l'Italia per le violenze di Bolzaneto nel 2001, fu tortura. Il Comune di Palermo pubblica la lista dei commercianti che pagano la Tari e l'associazione protesta. Adotta un autobus a Genova, si pensa ad un nuovo sistema di sponsor per pagare i mezzi nuovi. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Sempre 349-238-6666, il numero per gli sms e per i messaggi su WhatsApp, e sempre la pagina Facebook di Radio 24 e la pagina Facebook di Effetto Giorno, dalle quali andiamo in diretta video. Se volete potete commentare anche là. Tra l'altro, sulla pagina Facebook di Effetto Giorno abbiamo anche attivato il sistema di recensioni, potete recensire come un ristorante da 1 a 5 stelle oppure 0 se non volete mettere la recensione. Dall'altra parte del vetro, Laura Faggini in assistenza in redazione, Andrea Roccabella in regia. Iniziamo dunque dalla legge elettorale, che è legge, e scusate appunto l'assonanza. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì Simone, allora con 214 sì, 61 no e 2 astenuti il Rosatellum diventa legge, il sì definitivo. A questa mattina discussione accesa nell'aula di Palazzo Madama, il capogruppo del PD Luigi Zanda rivendica le fiducie poste sul Rosatellum per evitare il voto segreto, e poi guarda al futuro, guarda allo Ius Soli, sentiamo. Non appena avremo la certezza di avere i voti necessari, accoglierei con molto favore una decisione del governo di mettere la fiducia sullo Ius Soli, che non è un provvedimento del governo, prima della fine di questa legislatura. Ma è stata la mattinata di Dennis Verdini di Ala, che è intervenuto in aula, anche contestato dal Movimento 5 Stelle, si dice pronto il senatore a votare lo Ius Soli, ma rivendica soprattutto il suo ruolo nella maggioranza. Sentiamo. Oggi si dice che si è realizzata una maggioranza con l'uscita di articolo 1 e col nostro ingresso. Non è vero, perché noi c'eravamo, ci siamo stati e ci saremo fino all'ultimo giorno della legislatura. Un tempo esisteva l'appoggio esterno ai governi, adesso c'è l'appoggio fantasma, coniato appositamente per noi. Un neologismo tartufesco, perché lo sanno anche i sassi, che qui dentro non c'è mai stata una vera maggioranza politica. A sostenere la legge elettorale anche Forza Italia, Paolo Romani spiega che si pongono le basi perché la prossima legislatura sia stabile. Abbiamo evitato che si andasse al voto con testi non omogenei tra Camera e Senato. E Senato contro il Movimento 5 Stelle, per il capogruppo Giovanni Endrizzi questa legge è bunga bunga, un'orgia di pluricandidati in cui l'utilizzatore finale è immancabilmente sempre lo stesso. A te Simone. Grazie dunque ad Elisabetta Fiorito per questo aggiornamento. Piccola nota, ha ragione l'ascoltatore. Ascoltatrice che scrive, sì, non è un'assonanza, è una cacofonia, volevo dire assonanza cacofonica quando ho detto che la legge elettorale è legge. Veniamo invece alla Banca d'Italia, altra questione politica importante, oggi dovrebbe arrivare la decisione sul nome del prossimo governatore, sentiamo. Ore decisive per la nomina del numero uno di Palazzo Koch, ma salvo imprevisti la strada per la riconferma di Ignazio Visco è tutta in discesa, strada tracciata dal premier Paolo Gentiloni in accordo con il capo dello Stato Mattarella. Matteo Renzi però torna all'attacco e in un'intervista di questa mattina non usa giri di parole. Con Gentiloni su Banca Italia abbiamo un'opinione diametralmente diversa, ma rispetto alla filiera istituzionale e il nome che oggi verrà dato. Nel merito però, aggiunge il segretario Dem, dico che in questi 6 anni il sistema di vigilanza non ha funzionato. Chi sbaglia paga, se Visco viene rinnovato dura 12 anni, mi auguro, conclude Renzi, che almeno i prossimi 6 siano migliori. Insomma, la linea del PD, ribadita anche ieri dal presidente Orfini, è discontinuità, perché non si possono ignorare le critiche del Parlamento. Oggi in Banca Italia dovrebbe arrivare la lettera del premier Gentiloni con il nome del designato, sul quale sarà chiamato ad esprimere parere non vincolante il Consiglio Superiore della Banca. Domani la delibera arriverà in Consiglio dei Ministri e, ultimo passaggio, la firma del decreto di nomina del presidente Presidente della Repubblica. Una partita che in ogni caso si chiuderà in tempi brevi. Ignazio Visco intanto attende a Francoforte, dove si trova da ieri per il direttorio della BCE. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. In effetti oggi andiamo proprio a Francoforte, dove la Banca Centrale Europea potrebbe annunciare l'avvio del processo di riduzione degli stimoli monetari. Più che cosa dirà, sarà fondamentale come lo dirà. Il numero uno della BCE, Mario Draghi, oggi annuncerà la riduzione del piano di stimoli all'economia lanciato 3 anni fa dalla Banca Centrale Europea per contrastare la crisi finanziaria. Il programma di acquisto titoli, prevalentemente bond pubblici, da 60 miliardi di euro al mese si conclude alla fine dell'anno. L'intenzione ovviamente è di andare avanti, ma a un ritmo più blando. Si parla di 30 miliardi mensili fino a settembre, con la possibilità di proseguire oltre se necessario. Importanti saranno le parole con cui il presidente dell'Eurotower darà l'annuncio. L'obiettivo è non destabilizzare i mercati ed evitare bruschi rialzi di euro e rendimenti che, con un'inflazione ancora ben sotto al 2%, finirebbero per soffocare la ripresa. Lo stesso Draghi ha richiamato più volte alla prudenza. La riduzione degli stimoli deve essere lenta. La BCE manterrà infatti una linea ultra accomodante anche dopo la riduzione del quantitative easing. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Dopo Irlanda, Lussemburgo e Olanda, ora tocca al Regno Unito, in fase di addio all'Unione Europea, come sapete, passare sotto le forche caudine dell'antitrust europeo per il regime di favore alle multinazionali. La Commissione ha aperto un'inchiesta approfondita sull'esenzione di certe operazioni dall'applicazione delle regole nazionali di contrasto all'evasione fiscale. Andiamo in Val di Susa adesso, dove sono ripresi gli incendi dopo un momento di apparente calma. Siamo in diretta con Filomena Greco per gli aggiornamenti. Filomena, buongiorno. Sì, Simone, così l'allarme incendi in provincia di Torino, come anche in alcune valli del Cuneese, è iniziato una settimana fa. La situazione ad oggi resta molto critica. Dalla sala operativa del comando dei vigili del fuoco provinciale mi hanno raccontato che le zone interessate ai roghi sono almeno una ventina e sono 8 i fronti principali, tutti nell'area della Valsusa, del Pinerolese, con anche interessato il versante della provincia di Cuneo. Il vento resta significativo, cambia direzione molto in fretta, quindi è difficile intervenire in maniera tempestiva proprio per queste caratteristiche degli incendi in corso, e anche perché le aree interessate, lo ricordiamo, sono tutte aree alpine, spesso in quota, con vie d'accesso che sono sentieri, dove le squadre arrivano spesso a piedi, senza poter contare quindi sui mezzi più grandi per l'intervento antincendio da terra. Ieri sera c'è stato un gravissimo incidente a Cantalupo, uno dei fronti per gli incendi più significativo. Un ragazzo di 26 anni è morto a causa di un infarto mentre abbatteva degli alberi per tentare di creare una zona di sicurezza rispetto al fuoco nella sua proprietà. Disagi anche lungo la statale del Colle della Maddalena, che è chiusa per motivi di sicurezza, dove sono rimasti bloccati circa una quarantina di tir questa notte. I roghi stanno raggiungendo in queste ore le diverse borgate, sono all'opera sia i vigili del fuoco che i volontari antincendio. Ieri sera il sindaco di Cantalupo ha annunciato l'intenzione di chiedere al prefetto di attivare l'esercito. È un'ipotesi che effettivamente in queste ore sta prendendo forma, anche perché si stanno interessando i parlamentari piemontesi. Il presidente della regione Piemonte, Sergio Chiamparino, ha annunciato la richiesta dello stato di calamità naturale. Sabato in programma un sopralluogo sulle aree interessate dagli incendi, quindi si preparerà una relazione per avviare l'iter di richiesta degli aiuti. Un'ultima cosa, sono numerosi gli appelli che arrivano dalle forze dell'ordine, da chi sta intervenendo negli incendi. L'allerta deve rimanere altissima ed evitare qualsiasi attività che possa innescare un incendio, compresa naturalmente la caccia. Dicono gli operatori che in questo momento la vegetazione, con queste condizioni climatiche, è come fosse benzina, dunque attenzione. Grazie a Filomena Greco, e siamo in linea con Piera Favro, che è sindaco di Monpantero, e siamo appunto in Val di Susa per avere un quadro della situazione, almeno per quanto riguarda il suo comune. Come vanno le cose, Favro? Buongiorno innanzitutto. Buongiorno, grazie a tutti voi, ma vorrei dare buone notizie. Purtroppo in realtà sono molto preoccupata, perché il fuoco per noi è un incendio prettamente boschivo, anche se interessa delle borgate che sono abitate d'estate e di vastissime proporzioni, essendo appunto un incendio così imponente, con boschi e pini, quindi facilmente infiammabili, Insomma, sono molto preoccupata, ecco, devo dire la verità, perché il bosco è la nostra ricchezza, sta andando tutto in fumo. Devo ringraziare però tutte le i vigili del fuoco che da giorni ormai si stanno prodigando senza sosta. Quindi il fuoco è ancora attivo, Fabio? È ancora attivo, sì, purtroppo sì, previsioni meteo non promettono bene. Esatto. Mi scusi, ci sono state evacuazioni di abitazioni oppure no? Noi no, perché come sono abitazioni estive, quindi per fortuna non c'era gente da evacuare e nessuna abitazione per ora è bruciata, quindi perché sono stati veramente bravi i volontari che hanno sempre tenuto il fuoco lontano dalle case. Però il danno è enorme, perché noi abbiamo due SIC, quindi due OSI di protezione, che adesso stanno bruciando, e speriamo che riescano a fermarlo, perché poi c'è una pineta bellissima del Pampalù, e guai se mai dovesse essere toccata, arrivare fino lì, perché vorrebbe dire che brucia tutta la montagna. Quindi io sono preoccupata ma speranzosa. Molto, molto. E speranzosa che il Canadair, magari, perché oggi riescano, dovrebbe intervenire un Canadair e riesca a spegnere le fiamme. Io la ringrazio. Grazie a Piera Favro, sindaco di Monpantero, siamo in Val di Susa, per questa testimonianza. E adesso ci occupiamo di diritti umani e della condanna che è arrivata all'Italia da parte della Corte di Strasburgo per Bolzaneto, per il G7 di Genova del 2001. Al mattino la polizia carceraria ha cominciato a menare un po' tutti, e quindi mi hanno pestato sul collo, in faccia. Mi ricordo soprattutto di una ragazza tedesca cui erano stati sfracellati i denti davanti, il mento e la mandibola. Queste sono alcune delle testimonianze dei quasi 300 ragazzi che durante il G8 di Genova del 2001 finirono nella caserma di Bolzaneto, dove rimasero per quasi due giorni tra maltrattamenti, violenze fisiche e psicologiche da parte delle forze di polizia, atti che la Corte Europea dei Diritti Umani ha sancito fossero atti di tortura, condannando l'Italia oggi per le azioni dei membri delle forze dell'ordine e perché lo Stato non ha condotto un'indagine efficace. Ma i fatti di Bolzaneto non furono fatti isolati. Alcune guardie carcerarie di Assi nel 2004 torturarono due detenuti. Lo stabilisce sempre la Corte Europea dei Diritti Umani. La Corte ha inoltre stabilito che lo Stato dovrà versare 80.000 euro per danni morali ad Andrea Cirino e alla figlia di Claudio Renne, morto in carcere lo scorso gennaio. Con amarezza constato che i cittadini in Italia non sono stati ascoltati mai, ci dice Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, il geometra romano morto in carcere nell'ottobre 2009, una settimana dopo il suo arresto. Cittadino, e ne abbiamo la dimostrazione, è completamente abbandonato. Con noi abbiamo bisogno di andare altrove per dimostrare che avevamo ragione, che non è che ci eravamo inventati tutto, e lì è che lo Stato non è in grado di tutelarci. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora andiamo a Strasburgo proprio, dove è stato assegnato al Parlamento Europeo il premio Sakharov. Il premio Sakharov è un premio per i diritti umani, è stato assegnato tra le contestazioni. Sentiamo dunque un minuto di questo passaggio parlamentare, nel quale a prendere la parola è il Presidente del Parlamento, Antonio Tajani. Sentiamo. La conferenza dei presidenti dei gruppi politici ha appena deciso di attribuire il premio Sakharov 2017 per la libertà di pensiero all'opposizione democratica in Venezuela. Dalla sua istituzione nel 1988, questo premio viene assegnato a chi ha contribuito in modo eccezionale alla lotta per i diritti umani. Non ha un colore politico, rappresenta invece uno dei momenti più simbolici. Vi prego di rispettare la volontà della maggioranza del Parlamento. Non c'è nulla da ridere quando si parla di milioni di persone e di bambini che muoiono di fame. Così dunque Antonio Tajani e le contestazioni. Prima di andare a sentire cosa succede sulle strade, un punto calcistico dopo la serata di campionato di ieri. Carlo Genta, ciao, buongiorno. Simone, buongiorno. Eccoci. A tutti. Eccoci con le prime 5 della classe che vincono tutte. Erano partite, insomma, tra le migliori squadre del campionato e le altre, quindi sarebbe stato da sorprendersi del contrario. Vincono in modo diverso. Ad esempio il Napoli, giocando un eccellente tratto di partita di una settantina di minuti, poi rischiando qualcosa di troppo nel finale a Genova, dove peraltro Sarri non aveva mai vinto in casa del Genova, quindi altro buon segnale dopo 2-0 degli anni passati. Dell'Inter sappiamo già tutto. La Juventus, per la Juventus una vittoria di segno diverso, 4-1, larga con la spalla, però un po' di sofferenza di troppo che non è piaciuta ad Allegri. La Lazio ha fatto un gran colpo vincendo a Bologna, squadra eccellente quella di Donadoni, e quindi prosegue la marcia della Lazio, così come quella della Roma, che invece un golletto su rigore di Perotti e si sbarazza del Crotone. Però il Benevento rimane inchiodato a quota zero, insomma, questa dimostrazione del fatto che un campionato nemmeno a due velocità, forse a tre o quattro. Si aspettava il Milan, Milan a Verona, era su quello che ti volevo. Dulcis in fondo, lasciamola a suspense, ma tanto sapranno già tutti il risultato. 4-1 per la squadra di Montella, che veniva da tre sconfitte e un pareggio in campionato. Chiaramente non ha risolto tutti i suoi problemi. Arriverà la Juventus a San Siro nel weekend, sarà ovviamente un'altra partita, però intanto Montella e il Milan devono vivere giorno per giorno, e ieri a Chievo le cose sono andate bene con Suso, che ha aperto ai rossoneri la strada di un successo che non poteva essere mancato. Sì, è un discreto segnale comunque. Allora, grazie a Carlo Genta, che ritroviamo alle 14 in tutti i convocati dopo Gioia delle 14. Noi ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade, ci ritroviamo subito dopo. Iniziamo il nostro consueto giro d'Italia e iniziamo dal Comune di Palermo, del quale noi ci siamo occupati in passato raccontando questo fatto che il 90% dei ristoratori, per esempio, non paga la Tari, cioè ci sono dei livelli di evasione della tassa sui rifiuti elevatissimi. E cosa ha fatto a un certo punto il Comune di Palermo? Ha deciso di pubblicare la lista dei commercianti che la Tari la pagano, e quindi per esclusione mettendo sostanzialmente alla gogna quelli che non la pagano, e l'associazione commercianti protesta. Parleremo di questo, così come parleremo di una tassa sul rumore degli aerei, oggi puntata quasi fiscale, e dell'ipotesi che vi avevamo già segnalato nei titoli di Genova, che dice l'azienda dei trasporti non ha tanti soldi per rinnovare i mezzi, facciamo un meccanismo di adozione degli autobus. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia, sempre 349-238-6666, il numero per gli sms, per i messaggi su WhatsApp, e c'è la nostra pagina Facebook, la pagina Facebook di Radio 24, dalle quali andiamo anche in diretta video. Se volete potete seguirci anche là, potete commentare anche là, e come vi dico ogni giorno potete anche attivare la notifica per sapere quando Radio 24 è in diretta, e quando e se volete connettervi, disturba poco tutto sommato. Iniziamo, dopo aver parlato nella prima parte della trasmissione dell'approvazione della legge elettorale della Banca d'Italia, perché siamo vicini alla scelta del successore di Ignazio Visco, e potrebbe essere lo stesso Ignazio Visco, della Val di Susa in fiamme, del Parlamento Europeo che assegna il premio Sakharov, della Corte di Strasburgo che condanna l'Italia per le violenze di Bolzaneto. Dopo aver parlato di tutto questo, si diceva, iniziamo il nostro giro d'Italia. Iniziamo da Palermo. Di Palermo ci eravamo già occupati, come si diceva, a proposito dell'evasione della Tari, della tassa sui rifiuti. Avevamo ospitato l'assessore comunale, il quale ci aveva raccontato qualcosa in più su questi dati incredibili, per i quali il 90% dei ristoranti non paga la tassa sui rifiuti, e ci sono casi di evasione clamorosi come alberghi nel pieno centro storico. E noi ci chiedevamo, ma com'è possibile? Un albergo è là, è un oggetto fisico che è nel centro storico, e se non paga una tassa sui rifiuti, qualche domanda, qualche accertamento glielo dovrai fare. Dunque si prova a correre ai ripari, e si prova a correre ai ripari anche in un modo particolare. Il comune ha deciso di pubblicare una lista dei commercianti che la Tari invece la pagano, e però in quel modo si sa anche e si rendono pubblici in sostanza coloro che questa Tari non la pagano. E questo ha irritato l'Associazione dei Commercianti di Palermo, la Confcommercio. Siamo in linea con Patrizia Di Dio, che ne è la presidente. Buongiorno Di Dio, benvenuta. Buongiorno a voi. Allora, come mai siete contro questa scelta del Comune di Palermo? No, per la verità noi abbiamo assolutamente sostenuto questa scelta premiale comunque di dare evidenza con qualcosa anche nei punti vendita, così per di tutti coloro che comunque con grande, anche se con grandi difficoltà, riescono a rimanere al passo nel pagamento di tutti gli adempimenti. La cosa invece che non garantiremmo sarebbe invece la lista, perché la lista è una lista di proscrizione al contrario, e alle volte dietro il mancato pagamento non è così semplice, cioè pensare che è soltanto una inadempienza, intanto non un'evasione, perché parliamo comunque di attività regolarmente registrate. L'inadempienza in alcuni casi è passata sia attraverso delle complicanze, delle farraginosità bizantine, proprio delle stesse modalità di cui non vi sto a dire, per cui ci sono anche casi di impossibilità ad adempiere, sia in altri casi. Cosa vuol dire impossibilità ad adempiere? Me lo spiega, Didio, allora, senza scendere nel dettaglio normativo, perché siamo comunque in radio, però mi spiega cosa vuol dire impossibilità ad adempiere al pagamento della Tari, al di là delle difficoltà economiche, dico, mi sembra di aver capito, c'è un problema burocratico, no? Al netto di questo, cioè impossibilità intanto perché ci sono delle cartelle che alle volte non rispecchiano assolutamente le superfici, quindi questo comunque anche nel contraddittorio così tra comune e attività, quindi non si deve adempiere perché si deve fare ricorso, e quindi questo innesca un meccanismo di non pagamento. Però al di là di questo, quando le aziende si iscrivono per la prima volta, per esempio, ne dico una che è la cosa più semplice da comprendere, quando ci si iscrive non è così automatico, non è automatico che arrivi la cartella. Allora molti imprenditori non sanno che bisogna adempiere in autoliquidazione, cioè di solito cosa facciamo tutti noi? Aspettiamo una cartella per poter adempiere, invece non si sa che anche dopo 3 anni arriva, e arriva poi a questo punto 3 anni, e in tre questo anni caso tutti sei insieme. Tutti insieme, tre in questo caso sei inadempiente e devi pagare pure con le more, ma con però, le sanzioni. Però mi scusi, Dio, abbia pazienza, Dio, però io mi chiedo questo, ma nel momento nel quale hai un negozio, e vedi che il primo anno non ti arriva la cartella della Tari, a un certo punto dirai, io i rifiuti li produco, questa Tari la dovrò pagare o no? Ma assolutamente sì, ma infatti allora, aspettano la cartella. Qui diciamo, ho capito, però non è che aspetti la cartella, telefoni al Comune di Palermo e gli dici, mi scusi, sono in regola, perché allora, sennò poi prendo una mazzata. Ma infatti questo non è una giustificazione, però volevo dire che dietro l'inadempienza ci sono delle motivazioni, per cui poi quando ti arriva la cartella, ti arrivano di 3 anni, dici, ahimè, mannaggia, potevo pagare il primo anno, ma non lo sapevo, allora essere inconsapevoli di determinate cose non vuol dire essere colpevoli, bisogna comunque distinguere, non solo quando ti arrivano 3 anni devi magari chiedi anche la rateizzazione, allora la rateizzazione a questo punto la puoi ottenere soltanto facendo ricorso, per cui dico ci sono delle dinamiche anche tecniche complicate che non sono così semplici da dirimersi. Però noi sosteniamo sempre comunque che noi possiamo soltanto pretendere i nostri diritti soltanto quando avremo assolto i nostri doveri, quindi siamo sfondo una porta aperta. Questa è una bella, comunque... questa è una bella frase mi piace, no, questa mi piace molto, perché insomma ripeto, per questo noi siamo per premiare comunque quelli virtuosi, perché comunque sono stati attenti, hanno avuto alle loro spalle dei commercianti scrupolosi che hanno anche informato su quello, perché magari noi facciamo gli imprenditori, non siamo edotti su quello che bisogna fare. Quando arriva la cartella noi paghiamo. Se la cartella non arriva. Magari ne arrivano tante ogni giorno cartelle, quindi non è che magari facciamo discernimento. E quindi tra magari uno si perde. L'importante è che pago. Solo che poi quando mi arriva 3 anni con le sanzioni, le devo dire, Didio, francamente, sono un po' perplesso. Nel senso che se mi arriva la cartella della Tari, non è che me la perdo, in tutta sincerità, perché so poi come va a finire. Perché poi mi ritrovo dietro riscossione Sicilia o Equitalia per noi che siamo in continente. quindi non so, però se lei mi dice che ci sono anche problemi di questo tipo, va bene. Comunque la lista pubblica secondo voi non va bene? Allora, io ero, è una cosa leggermente diversa, non solo per la lista pubblica, ma solo per dare la certificazione, quindi diciamo questa, questa effigie di premialità, di virtuosità a quelli che sono in regola. Cioè l'esempio è, se io ho questa certificazione nel mio negozio, me lo metto in bella mostra, altro è invece una prescrizione al contrario, che comunque dà evidenza a quelli che non ci sono, e quelli che non ci sono non è così semplice che siano soltanto brutti e cattivi. Sì, è possibile, però non anche, è che uno quindi... si mette a, far, a, a fare i conti e la sottrazione, cioè non è che uno passa sì, per le strade di Palermo e si con sotto la lista, con sotto la lista, e dice no, questo non c'è tra i pagatori della Tari, dai su. No, però altro è vedere, vedere soltanto diciamo nelle attività commerciali o negli alberghi o nei ristoranti, vedere fuori affisso qualcosa che dà questo distintivo di virtuosità, ed è sicuramente più invogliato a riconoscere in quell'attività anche qualcosa con cui si fa, si ha anche piacere a identificarsi anche da semplici cittadini. Quindi siamo in linea con questo criterio, sì, che da cittadini e da imprese dobbiamo adempiere. Poi magari l'insostenibilità alle volte anche proprio per la mole di quello che bisogna pagare, impossibilità, ma quella è un'altra storia, sì, ovviamente, di inadempienza. La ringrazio, grazie Patrizia Di Dio, presidente di Confcommercio Palermo. Mi fa notare un ascoltatore, giustamente dice Equitalia non c'è più. È vero, Equitalia non c'è più, però come fanno cenno colleghi dall'altra parte del vetro, tra virgolette non c'è più, qualcuno che riscuota le tasse c'è sempre, un po' come dire non ho più una lira, le lire non ci sono più, anche se qualcuno spera che ritornino, però diciamo l'espressione rimane, Equitalia nel linguaggio popolare, per così dire. Visto che è puntata fiscale oggi, andiamo in Piemonte. Aldo Reschigna, vicepresidente della regione, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi. E anche, che si occupa anche di bilancio, Reschigna, una tassa sul rumore degli aerei, ho capito bene? È una norma nazionale che da moltissimi anni, prima era una norma nazionale ed era una tassa nazionale che veniva riscossa direttamente dallo Stato, poi è stata trasferita alle regioni. Ora, in questo momento in Italia esistono solo due regioni che la applicano, che sono la Lazio e la Campania. Sì. L'anno scorso, in sede di discussione della legge di bilancio, è stato votato un emendamento che prevede l'applicazione anche in Piemonte, che non so se entrerà in vigore dal 2018, sì, per la semplice ragione che nei testi che stanno circolando sulla legge bilancio dello Stato è confermato anche per il 2018 il divieto per comuni e per regioni di incrementare la pressione fiscale. Sì. Però questo lo vedremo nei prossimi giorni. Ed è nel caso entrasse in vigore, è una, come funziona? Cioè come si misura il rumore degli aerei e quanto li tassate? Cioè in base ai decibel, in base a che cosa? No, il meccanismo previsto dalla legge prevede sostanzialmente due possibili parametri. Uno è quello sul peso degli aerei e l'altro è sulla classificazione degli aerei. Anche gli aerei hanno una classificazione come le macchine, Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, eccetera. Sì. In questo momento la discussione che si sta facendo in regione è quella di eventualmente una classificazione che tenga conto della classe dell'aereo, immaginando che questa classe dell'aereo corrisponde a un margine, sì, di inquinamento maggiore rispetto a classi più evolute. Ma quindi sulla base dell'inquinamento, non del rumore, non ho capito però. Allora, è una norma, vicepresidente, è un'imposta perché... di carattere ambientale. Non è sul rumore, perché questo no, sta un po' passando, no? Sul rumore che producono gli aerei e quindi l'impatto sulle popolazioni che si trovano accanto agli aeroporti. Chi vive vicino ad un aeroporto lo sa benissimo che è discretamente fastidiosa come peraltro cosa. La legge nazionale impone che gran parte delle risorse siano riversate per interventi tesi al miglioramento ambientale, tra cui ci sono anche il rumore, per essere chiaro, a favore dei comuni e delle popolazioni più vicine agli aeroporti. Quindi di fatto una tassa di scopo, cioè uno mette questa tassa e di fatto questi soldi dovrebbero andare, poi lo sappiamo come funzionano le pieghe dei bilanci, ma non sappiamo mai come... obbligatoriamente. Lo so. Però il dibattito anche i proventi dell'evasione fiscale dovevano andare, del recupero dell'evasione fiscale dovevano andare alla riduzione delle tasse e poi ne abbiamo visto ben poco. Però, la norma che ha votato il Consiglio regionale un anno fa e che non è ancora applicabile, voglio dire, perché c'è questo divieto nazionale, prevede come norma l'obbligo del riversamento di queste risorse a favore dei comuni con termini dell'aeroporto. Quindi non sono risorse che rimangono nel bilancio della regione. C'è un vincolo di destinazione che è imposto dalla legge regionale che prevede obbligatoriamente, cioè sarebbe danno erariale, per essere chiaro, se ci si comportasse diversamente in questo caso. Allora, la ringrazio e vedremo se entrerà in vigore questa norma che dovrebbe far entrare nelle casse della regione e quindi nei comuni interessati 1 milione, se non sbaglio, più o meno questi sono i calcoli al massimo. Reschigna, no, è caduto Reschigna, però ve lo dico io, almeno questo è quello che pubblicano i giornali, fanno notare gli ascoltatori a proposito di puntate fiscali. Sì, quello che abbiamo raccontato poco fa è il fatto che a Palermo esiste un meccanismo premiale per chi paga le tasse, non è niente male. Ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sui mercati, ci ritroviamo subito dopo e andiamo al trasporto pubblico locale, dove Genova ha avuto un'idea che secondo noi non è niente male, tutto sommato. Non ci sono i soldi, o è difficile trovarli per il trasporto pubblico locale. Ebbene, l'azienda dei trasporti locali dice, va bene, puoi adottare un bus, cioè un'azienda se lo prende e per un anno lo sponsorizza interamente e però compra il mezzo nuovo e vedremo se qualcuno aderirà. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. La legge elettorale approvata anche dal Senato, è stato il giorno di Verdini. Restiamo in maggioranza, dice Banca d'Italia, forse oggi il nome del governatore, si punta sul rinnovo del mandato di Visco. La Val di Susa continua a bruciare, evacuate delle case, la regione vuole lo stato di calamità. Il Parlamento europeo assegna il premio Sakharov per i diritti umani all'opposizione venezuelana. La borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo, ultima tappa del nostro giro per l'Italia ci porta a Genova, non per parlare della vicenda di Bolzaneto, ma lo dico perché un ascoltatore ci ha scritto al 349-238-6666 e dice, parlate di tutto tranne che di questo. Ne abbiamo parlato nella prima parte della trasmissione, abbiamo sentito un ottimo servizio della nostra e approfondito servizio della nostra Cristina Carpinelli esattamente su quel tema, sul fatto che la Corte dei diritti dell'uomo ha condannato l'Italia perché ritiene che sia stata commessa tortura nella caserma di Bolzaneto. Dunque andiamo a Genova peraltro per parlare di trasporto pubblico locale. Abbiamo dall'altra parte del vetro il nostro Andrea Roccabella, che è genovese e avrebbe qualcosa da dire forse a Stefano Pesci, che è il direttore generale di AMT, l'azienda municipale dei trasporti di Genova, che ha avuto una bella idea, almeno a nostro giudizio. Insomma, è difficile rinnovare i mezzi, ci vogliono tanti investimenti, tanti soldi e dunque perché non far sì che delle aziende adottino un autobus, avendo di fatto la sponsorship di questo autobus almeno per un anno. Stefano Pesci, buongiorno, eccoci. Buongiorno a voi. Allora, come funziona questa cosa? Ma è una idea nuova che definirei allo stesso tempo di cofinanziamento per l'acquisto di un autobus e di co-marketing. Voi sapete che i fondi per acquisto autobus negli ultimi tempi sono stati pesantemente ridotti, quindi noi siamo anche costretti ad acquistare dei mezzi in autofinanziamento. Oggi ne abbiamo presentato 25 nuovi e abbiamo bisogno, come dire, di trovare degli operatori commerciali che siano anche interessati a cofinanziare questi mezzi, proprio per la scarsità delle risorse pubbliche, attraverso un'operazione di co-marketing. In cosa consiste? Allora, noi pensiamo che un autobus che circola nella città abbia una straordinaria possibilità di offrire dei contatti. Faccio un esempio: il nostro autobus ogni anno, uno solo, trasporta circa 500.000 persone, sono 500.000 saliti e discesi. Abbiamo 90.000 abbonati, quindi sì, più del doppio di Genova e Sampdoria, visto che siamo qui a Genova. No? Abbiamo milioni di contatti che avvengono attraverso il nostro sito istituzionale, le app che abbiamo creato, eccetera. Quindi chi decide di finanziarci, darci nel caso di specie 25.000 euro all'anno, no, per l'acquisto di un autobus per un periodo pluriennale possibilmente, sì, avrà diritto ad avere in esclusiva l'utilizzo di questo autobus, cioè lo adotterà e lo avrà in esclusiva. L'autobus passerà nel quartiere, tutti lo conosceranno, completamente decorato col marchio, il brand, diciamo, sì, dell'imprenditore che vuole finanziare, e non solo, all'interno avrà la possibilità, attraverso un wifi che installeremo, di avere contatti con tutti i nostri passeggeri, ma anche avere contatti alle banche dati che noi potremo fornire in un'operazione di co-marketing vantaggiosa. E quindi fornirete a queste aziende anche i dati dei passeggeri? Beh, diciamo che naturalmente tutti quelli che saranno autorizzati. Perché un po' delicato questo. Certo, sì, sì, dobbiamo affrontare chiaramente la tematica anche della privacy, della riservatezza, ma agiremo ovviamente nei limiti di quelle che sono le norme di legge, con tutte le cautele, le precauzioni del caso, chiaramente. Ma che le risulti, Pesci, non insomma, poi è un po' come chiedere se all'oste se il vino è buono, però sì, che le risulti, è il primo caso in Italia di questo genere? Penso di sì, perché ho fatto qualche sondaggio, diciamo, non mi risulta non che le risulta di questo genere, cioè ci sono semplicemente iniziative come già facciamo noi di sponsorizzazione comunque, normali, quelle che vediamo dappertutto, autobus, insomma, sì, allora, non così di sfruttamento commerciale, diciamo, anche con l'acquisto del mezzo. La ringrazio, grazie a Stefano Pesci, direttore generale di AMT, l'azienda municipale dei trasporti di Genova. Qualche ascoltatore dice: Dio santo, ragazzi, però che pesantezza, se l'avesse fatto la Raggi l'avreste attaccata, siete ridicoli. Ma no, se l'avesse fatto la Raggi sarebbe stata un'ottima idea, esattamente come quella di Genova. Traffico, Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.